una parrocchia, la comunità dei podisti, la comunità dello yoga, la comunità dei ciclisti. Questa è la prova che mondi diversi, con sensibilità diverse, eccetera, hanno capito che non è una battaglia, non nel mio giardino, che è proprio una battaglia per modificare delle previsioni urbanistiche che riguardano un'area, tutta l'area ovest della città, che non è piccola. State raccogliendo le firme per l'istruttoria pubblica, in pochi giorni siete già 500. Siamo arrivati a 4,70, abbiamo iniziato giovedì pomeriggio perché ci sono stati consegnati i moduli, quindi siamo in 4 giorni, siamo a un quinto delle firme necessarie. Abbiamo le file ogni volta che facciamo il banchetto. C'è stata una grande risposta a Santa Viola, nell'area di Santa Viola, che è quella interessata dal progetto di outlet. Prevediamo tranquillamente di consegnarle molto prima dei 60 giorni canonici e poi di consegnarne più del 2000 richiesta. L'istruttoria è per chiedere appunto una discussione sulle previsioni urbanistiche dallo stadio ai prati di Capaci, di tutta la città, ma in particolar modo su quell'area. Previsioni urbanistiche contenute nel piano operativo comunale. I prati di Caprara sono al primo posto nei luoghi del cuore del FAI. È curiosa questa cosa. Allora, intanto noi non sappiamo chi l'ha candidato, perché non siamo stati noi. Dopo l'abbiamo adottato e abbiamo visto che ha preso in un modo incredibile. D'altra parte, noi abbiamo raccolto quasi 7.000 firme non certificate sulla nostra piattaforma. Migliaia sono quelli che ci seguono. Quindi su Bologna questa cosa, appena si è saputa, ha preso da sola. Poi abbiamo adottato la proposta che all'inizio non aveva neanche il dossier minimo. Quello che si trova sul sito del FAI, in cui dice cosa sono i prati, mette le foto, l'abbiamo messo una settimana fa. Prima c'era solo la candidatura dei prati senza nessuna spiegazione ed era già arrivata al quinto posto. Ovviamente la troviamo una cosa molto bella. La curiosità è che è previsto, se vinciamo, un premio, un finanziamento per il luogo del cuore che vince. Noi non lo potremo prendere, noi siamo un comitato informale. Probabilmente quei fondi messi a disposizione, mi sembra, dell'Intesa San Paolo, andranno al sindaco, che dovrà usarli per il parco. Ma secondo voi, Palazzo da Curso, che cosa deve fare? Quell'area è di Invimit che la deve valorizzare. Si cambia il POC e poi? Quell'area è di Invimit, ma in realtà è pubblica. Noi non mettiamo in discussione la proprietà, anche perché è una proprietà pubblica. Mettiamo in discussione l'uso che se ne fa. Chiediamo un altro uso. Il discorso della valorizzazione è un discorso a doppio taglio. L'amministrazione pubblica più lo valorizza, più prende la provvigione. Quindi tutte le amministrazioni pubbliche saranno interessate a fare dei piani operativi in cui vengono previste degli insediamenti residenziali o commerciali, perché chiaramente quell'area, se è prevista o bloccata come area verde, vale molto molto meno che se è prevista come edificabile, o sbaglio. Poi bisogna vedere se i 40, 50 milioni che può valere quell'area hanno un senso. Quando il sindaco in consiglio comunale ha detto che quei soldi servono a abbattere il debito pubblico, a noi ci è venuto un po' da sorridere. Quindi la via è cambiare il POC e comprare? Comprare, trovare il modo di da parte del comprare, sì, comune. Ma magari muovendosi anche a livello centrale, perché se no si crea un meccanismo perverso per cui moltissime proprietà pubbliche vengono valorizzate ad hoc per abbattere un pelino di debito pubblico e senza mai pensare alle priorità, all'investimento per la città.